Victoria. Malte si era alzato con i postumi della sbornia della sera prima. Gli occhi rossi e ostili cercavano un errore, qualcosa da correggere o da commentare. Victoria gli preparò le uova strapazzate, posò la padella sul tavolo con la saliera accanto e gli versò un succo d'arancia. Malte scosse la testa. «Birra, devo farmi passare l'emicrania». Victoria non rispose, si limitò ad aprire il frigorifero e tirare fuori una delle lattine avanzate. «Ti serve altro?» Malte grugnì qualcosa in risposta. Victoria uscì dalla cucina, si appoggiò sulle spalle una giacca del marito, infilò i piedi in un paio di stivali di gomma e aprì la porta d'ingresso. L'aria era fredda e umida. Accese una sigaretta. I campi erano ancora grigi. Il cielo era grigio, tutto era grigio in quel paese di merda. Sulla strada principale, a 500 metri di distanza, passò una macchina rossa. Se avesse avuto la patente, avrebbe potuto rubare il furgoncino di Malte e scappare. Andare a Stoccolma. Ma Malte le aveva preso il passaporto e le aveva detto cosa avrebbe fatto la polizia svedese se l'avesse beccata a guidare senza patente. Sarebbe finita in galera, il che sarebbe stato ancora peggio che rimanere a Silbo. Quando era arrivata da Mosca, si erano fermati una notte a Stoccolma. Avevano preso una camera in albergo e cenato in un ristorante elegante. Poi, una volta in hotel, Victoria aveva capito di essere diventata una proprietà di Malte. Viveva alle sue condizioni. Era una comparsa nella sua esistenza. Lui si prendeva cura di lei e lei in cambio era tenuta a occuparsi della casa e ad aprire le gambe ogni volta che lui voleva. Il giorno dopo erano andati a Eby, poi si erano inoltrati ulteriormente nei boschi fino a Silbo. Victoria aveva conosciuto i genitori di Malte, che per tutto il pranzo in pizzeria l'avevano guardata come fosse una specie di strano animale. Lei si era sforzata di essere gentile, facendo domande nel suo inglese stentato, ma loro avevano continuato a fissarla in silenzio. Mentre tornavano a casa in macchina, Malte le aveva spiegato che agli svedesi non piace parlare molto. Victoria spense il mozzicone nel vaso di fiori e tornò dentro. La cucina era vuota. Suo marito era sceso in taverna. Sentì il brusio di una partita di calcio, gli incitamenti e le esclamazioni di Malte. Victoria sparecchiò la tavola, lavò la padella, versò il fondo di birra nel lavandino, domandandosi cosa avrebbe fatto per il resto della giornata. Il frigorifero era quasi vuoto. Sarebbe stata costretta a chiedere a Malte di portarla a Eby per fare la spesa. «Vieni qui!» la chiamò lui dal piano di sotto. Victoria strinse gli occhi. Sapeva cosa voleva. «Pompino!» ordinò Malte con gli occhi fissi sulla televisione, abbassandosi la tuta e le mutande. Victoria si inginocchiò davanti al divano e glielo prese in bocca. Lui le posò la lattina di birra sulla testa ridacchiando. «Cazzo, come mai non ci ho pensato prima? Quelle troie delle femministe hanno ragione. Le donne sanno davvero fare due cose contemporaneamente», disse appoggiandosi allo schienale.